mura, non posso più restare dentro quattro mura, mi sento soffocare. Alla TV è per la strada, solo cose morte, solo cose morte. Voglia di vivere, voglia di cambiare, voglia di vivere, voglia di cambiare. Non voglio restare, ma farmi giudicare, nella vita una sola, io non tengo da sprecare. No! Fuori dagli schemi, fuori dal normale, rifugiando una morale imposta dalla normalità. Passo dalla folla e vedo tanti capi, dentro la tua gabbia non riesci più a svegliarti. Dentro quattro mura non posso più restare.